Buonasera a tutti e tutte, finalmente ci siamo con la prima puntata della radio. La radio si chiama Radio Cagliè, poi vi spiegherò i motivi di questa scelta, di questo nome. Radio Cagliè, Radio della Strada, Radio nella Strada e Radio per Cagliè, un grande amico che se n'è andato, ci ha lasciato 3 anni or sono, a cui va un bacione grandissimo dovunque esso sia. E niente. La radio viene associata con un blog che si chiama raapp.blogs.org. Ringraziamo Distici per ospitare con il loro server tutte queste minchiate. Il blog è molto vario e la radio è l'ultimo delle cose che ci si aggiungono. Ma bando alle ciance. Mandiamo subito un super pezzo di Istigazione a Delinquere, purtroppo si sono sciolti, ma il pezzo è validissimo, si chiama Pirati e a tutti i pirati va dedicata questa rola, questa canzone. Bene, capitano, sono lieto di vedervi sorridere di nuovo. Questo ci porta ai bei tempi quando vivevamo da pirati per bene, saccheggiando e massacrando. Capitano, perché non riprendiamo il mare? Ecco perché dovremmo mollare gli ormeggi. Quest'isola ha cessato di essere un posto rispettabile. Giusto, giusto. Sono lieto che siate d'accordo. Presto, le mie vesti. La ciurma di balordi all'arrembaggio, in mezzo al peggio, sta roba non si vende perché non apprezzo, vi disprezzo ed interite sulla cute, ho 1000 note per la voce contro le cazzate che mi dite. Senza fede avanzo i colpi del rullante nelle cuffie, ogni terrime sputo merda sull'impero con il contagocce. Troppe sconfitte, mani trafitte senza segni, occhi rossi e denti marci, quindi è meglio stare attenti dagli squarci del mattino a quando cala il sole. Tutte 24 le ore se mi reggono le arterie, il tuo eroe non mette ancora il cuore in pace, allarme rosso per le strade dove alzo i volti, tensione e non durate, mezza sega delle classi dirigenti, non ci freghi, teniamo gli occhi bassi per vedere quando cedi, come vedi ho il calcare sopra i testi scritti per andare contro stronzi coi colletti bianchi. Benvenuti nella ciurma dove non c'è capitano, corsari tutti uguali tra quel bocca e Dio che mano, pronti per l'assalto al mascello alla deriva, quello che avevo nominato anche musica nociva. Non è mancanza di inventiva, c'ho un vocabolario immenso, è solo che lì dentro era rinchiuso il mio buonsenso, ardente come assenzio che trangugio dal bicchiere, lacerante come l'archibugio del suddetto bucaniero. Faccio per mestiere, ma per vocazione, come scopo c'è l'esproprio dei beni del padrone, la ridistribuzione dei tesori ai nullatenenti, permettendo l'immediata corsa agli armamenti. Attenti a non vederci dello spirito guerra fondaio, siamo solo ceppi scoppiettanti questo focolaio. Un altro guaio all'orizzonte, come Caronte sullo Stige, mi traghetto verso le catombe. Istiga a Delinquere, senti l'odio al cardiopalma, vi spedisco sottoterra coi compagni di merenda e di battaglia una scimitarra in mezzo ai denti, ficco sabbia dentro gli ingranaggi dei potenti, 1000 secondi del tic tac dell'orologio, ritmo monotono ogni giorno è pessimo e se vi sparate non vi biasimo, in delirio alcolico rulliscio spugna e gamba di legno quando bottino un sogno e il colpo è andato a segno. Parole come bisturi, la prova per i posteri di eserciti di cerberi con seguito di barbari caparbi, rifiutan vite da nababbi istigandoti a delinquere e a compiere altri danni, scansoi affanni come palle di cannone, scimitarra sfoderata pronta per l'esecuzione dei servi nel protone degli yuppies in Ferrari all'avventura tra i quartieri come per i 7 mari all'attacco in rotta contro il regno del consumo, picchio duro con la flotta, tu lascia a casa l'humor, seguo le mie orme fuori dal gregge come sempre, 8 battute da tenere a mente per la merda che uno spinge e non si finge, è tutto dentro agli occhi da tacchi a spillo delle squilla ai cocktail e fighetti, i nostri soldi per gli stronzi come premi e come pegno, bagno le mie rime in versi tossici al 100%. Assicurate l'altro maestro Mastri. Yeah. una bella band bolognese che si è formata a Bologna, il Germe, con un bel pezzo forte forte, Iron Butterfly. Vediamo se vi piace, a me mi piace assai Iron Butterfly. Siamo l'orda sporca che inghiotte questo mondo asettico. Il mio palcosceno devasta il tuo palcoscenico. Introdotti nei condotti sporchi degli acquedotti, si dischiudono le uova per rendervi tutti aborti. Inietto potassio nelle vene come la Poggiali. Il famiglio è dentro, strisciano su di te nel tuo appartamento. Ali strappate per innesti e segue circolari. Farfalla monarca, portatrice di malattie virali. E sono anni che porto odio e sporco dentro. Il mio dio nel tempio, uno scarabeo che raccoglie sterco. Tu vieni a trovarmi in fondo allo scarico. Tramuto la tua perfezione in misofobia e panico. Un organismo biomeccanico incubato quotidianamente, mentre proietta il suo sadismo in mezzo alla gente. E non mi aspetto che tu capisca questi miei progetti. Il Germe è musica per gli insetti. Ti crollano i progetti, ti crolla sto cielo addosso. Ti crolla la ragione, l'umorismo è il tuo percorso. Crollano i consensi, ciò che credi e ciò che pensi. Il Germe nel sottosuolo è musica per gli insetti. Ti crollano i progetti, ti crolla sto cielo addosso. Ti crolla la ragione, l'umorismo è il tuo percorso. Crollano i consensi, ciò che credi e ciò che pensi. Il Germe nel sottosuolo è musica per gli insetti. Porto Jack in congiamili in offerta al conclave. Architetto lucuste bioniche per le strade, nuove piaghe. Noi siamo gli infetti, gli insetti per farvi a pezzi. Tu rigetti il marciume, ma sto veleno non lo reggi. Se larve aprono le ali, innesti e seghe circolari. Nuovo ordinere d'acciaio per demolirvi il domani. Distruggo i piani, avanzo a caso con l'armata di Sam Raimi. Iron Butterfly tremuta in pianti sorrisi. Io sono l'uno contro tutti, fuori per farvi fuori. Guarda crollare a terra i tuoi valori, i tuoi campioni. Sguardo fisso dritto agli occhi, mastico i vostri orgogli. Mosche nere sopra i vostri corpi morti, sporchi e spogli. Cresce il seme del male, apocalisse dall'alveare. Dio cane, quanto ci godo mentre vi guardo scappare. Assetto bellico e rituale, il Germe annuncia le sconfitte. Passa lo sciame, San Luca decade, panico da scala Richter. Ti crollano i progetti, ti crolla sto cielo addosso. Ti crolla la ragione, l'umorismo è il tuo percorso. Crollano i consensi, ciò che credi e ciò che pensi. Il Germe nel sottosuolo è musica per gli insetti. Ti crolla nei progetti, ti crolla sto cielo addosso. Ti crolla la ragione, l'umorismo è il tuo percorso. Crollano i consensi, ciò che credi e ciò che pensi. Il Germe nel sottosuolo è musica per gli insetti. Yamin, Mescalavei, il Germe, Iron Butterfly 2015, Hard Record Studio. E poi per non perdere il ritmo, ragazzi e ragazze, un bel pezzo di un altro trapiantato a Bologna, Shiver, mi sa che è calabro pugliese. Il pezzo si chiama L'ansia e racconta un po' l'ansia che accompagna le nostre fottutissime giornate dalla mattina alla sera. Shiva, Wish, Master, Beats. Sono il pensiero negativo di prima mattina, il colpo che mi spacca le ossa a prendere sonno con la cocaina. Sono quel tarlo nel cervello che mi tormenta, la rabbia di chi non ha niente e non si addormenta. Sono la fame da crampi allo stomaco, l'ubriachezza da vomito, la noia di ogni giorno come al solito. Sono il male che mi porto dentro, l'amore che ho perso. Sono l'ansia che mi porto appresso. Affronto il mio destino a denti stretti. Combatto con gli spettri che vengono a cercarmi nelle notti. Ho un sacco di brutti sospetti che vorrei fossero pensieri infetti. Invece ho la realtà davanti agli occhi. C'è qualcuno che mi guarda, pronto a fare di ogni errore un'arma, per puntare il dito e dire Claudio sbaglia. Me ne fotto dei vostri giudizi, ho tutti vizi. E sono la persona con cui tu non socializzi. Sono la voglia di rivalsa di ogni stronzo che si è fatto il culo e adesso non vuole stare al suo posto. Sono il coraggio di chi lascia la sua terra per cercare qualcosa che dia senso a tutta sta merda. Sono la rabbia di mia madre che ha perso due figli. Sono la calma di mio padre madre nel darle gli appigli. Sono ricordi di quando avevo 20 anni. Il mondo era senza problemi e stavamo in piazza con gli altri. Sono il terrore di trovare la tua donna, coi polsi tagliati in bagno che bestemmia la Madonna. Sono i lamenti di mia nonna per la depressione. Sono lo sguardo di chi in testa ha solo malumore. Sono la determinazione di chi ha puntato un obiettivo e lo raggiunge o muore. Sono l'umore nero, grida e schiaffi dentro un cimitero. Sono le cose che tanto volevo ma di cui ho fatto a meno. Sono la stima persa, la fiducia calpestata. Sono la birra buona e il vino dannata. Sono 3 grammi dentro un blunt chiuso col miele. Sono i muzzoni raccolti dal posacenere. Sono un paesaggio che ti toglie le parole. La strada fatta a piedi sotto il sole. La munnezza per le strade, le spade a terra. La mia libertà è ciò che ho fatto per ottenerla. Sono la stanchezza appena sveglio, la voglia di fare meglio. Le sconfitte prese nonostante l'impegno. I sogni che non mi ricordo, gli incubi di giorno. Il sesso fatto hardcore come nei film porno. I pugni sul muro quando la rabbia diventa pazzia. I giorni che mi sono fatto invece di fare la spia. Vestiti bucati, tasche piene di porcheria. La barba sfatta che faccia franda la mia. Sono le mazzate in paese, le lezioni che ho appreso quando le ho prese. La fine del mese senza soldi in tasca. Gli sguardi della gente, il freddo dell'Alaska. Sono il significato dei disegni che ho sul corpo. I semi che ho piantato, i frutti che ho raccolto. Io sono tutto questo, tu un coglione e basta. Shiver, Wishmaster Beats, calci in faccia. Bra! Questa invece va alle persone irriducibili, le persone che non si arrendono, tutte le persone che sono state colpite negli ultimi mesi, anni dalla repressione, le ultime dell'operazione Panico, Scintilla, Buio, eccetera, eccetera, Scriptamania, solo per nominarne alcune. Bisogna fare un ragionamento serio su tutte queste operazioni e soprattutto passare al contrattacco, perché dalle dalle o taralle si rompa, dicono dalle mie parti. Questa va per tutte le persone irriducibili, refrattarie di ogni sistema. Troppi e troppe dentro, non sto buono, mi tormento. Metto al bando il vittimismo, è certo che non mi lamento. Ma accendiamo fuochi di passione e genio. Quando l'immobile teoria diventa movimento, organizzati azione diretta contro chi si annoia. Aspetta, gioca le tue carte come una scommessa. Tira fuori la rabbia repressa e vomita l'addosso a chi ce la riversa. Rompi le catene, sogna libertà assoluta. Senza mezzi termini, passività scaduta. Ogni merdoso CIE, ogni cazzo di prigione. Di frontiere fantasiose che non resti né un mattone. Non saremo libere perlomeno fino a quando. Non potremo amare, agire, essere in crescendo. Senza autorità, né morale, né politica. Senza ideologie, né chi ce le indica. Fermala, io provalo, non posso. Troppe persone irriducibili. Che si compromettono e carop. Fatta una cosa, un sarra bene, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo. Ultimo, fermalo, io provalo, non posso. Troppe persone irriducibili che si compromettono e caroppa. Fatta una cosa, un sarrabbetano, ma si assume le conseguenze fino all'ultimo. Mo. Fermale su provaci, non puoi, son troppe le persone irriducibili che si compromettono e che dopo fatta una cosa non si pentono ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo. Hilarus cado, cervella tutta gente che impotenza non può capì come se vivo con una benda attorno all'occhio annanzi e vecchia. Così la rabbia is buona, emotiva su parecchio e non partecipa e su schifo globale. Perché se non reagisci stai collaborando uguale. Tutto che li bota che gira faccia alla tulata. Pure tu sei complice e chi che fumanano, tanto freddo, grigio, cazzo, stanno a tutta parte. Alcuni immaginari ad avere proprio sbarra. Ta vonna tappa l'ala, ta vonna tappa luce. Ma non vonna intrappola che la cattiena più una scusa. O la tua selvaggia, l'individuo antisociale. Chi che non si cagna con un piano quinquennale. Chi che se ne fotte e pensa come allata. Chi che non pare ritmo attacca tutta lata. Fermala, io provalo, non posso. sono troppe persone irriducibili che si compromettono e caroppa. Fatta una cosa, un zarrabendano, ma si assumono conseguenze fino all'ultimo mo. Fermale su provaci, non puoi, sono troppe le persone irriducibili che si compromettono e che dopo, fatta una cosa, non si pentono, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo. E ora arriva una canzone di uno dei maestri del rap italiano, Lux, Costa Nostra, Costa Vostra, il pezzone, uno di tanti, e Vittime e Complotti, e non ha bisogno di spiegazioni, si racconta da solo. Lascia che una lirica cominci, fa che ti convinci, la costa da carta e il Mazzaro ma Luigi, perché quando attocca, rischio con il punto migliore, se un bluff alla fine si scopre, resto in posizione, senza guardia fissa, e chi fissa troppo forse è un poliziotto, in pista si sentono le solite subrette, e chi resta per strada ci riflette, 1997, con un piano migliore dei dannati faremo una nazione, nella confusione, la mente resta pulita. Qualcuno si prepara a una sfida, c'è chi scusa inventa, c'è chi si spaventa, c'è chi resta a fianco e per questo rappresenta. Niente è impossibile, e se sembra cucì, resta qui, forse puoi capire dove va a finire la storia, non lo vedo come l'orizzonte se il mare è uguale al cielo, ma ci credo e convince per la forza che sale, c'è un motivo se il nemico vuole attaccare. Solo vittime e complotti, quelli che separano la sorte di molti, meno ostaggio, oppure prepara il coraggio di stare un complotto rischiando, scegli il sentiero, la strada che prendi e il prezzo che paghi, se non sei sincero, vittime e complotti da sempre, ai ferri corti, tra spie e grandi poliziotti, merda! Quando una volante vola a basso, pare vada a spasso, pare che ti branca a scanso, la strada non si apre e si chiude per forza, ma io so chi è che la fa sporca, scoverò una serpe dove si è nascosta, prendo per mano una vittima dispersa, costa nostra, cazzi loro, spero, danno per l'inganno dell'impero, semino le cariche, la voglia di colpire in maniera inesorabile, giro tra la gente incontrollabile, sotto il controllo e il dominio mi esprimo nella quiete, porto il delirio, e anche se si ridono, sting, spingo, brado, contro la menzogna in apparato, sulla traccia me ne vado, senza fare troppe impronte, tanto coi fighetti non si confonde e non risponde, chi ne ha abbastanza, chiuso nella stanza, cova vendetta nella panza, quando l'ansia è carica nel corpo, o resti una vittima o prepari il tuo complotto. Sentiero, la strada che prendi è il prezzo che paghi, se non sei sincero, vittime e complotti da sempre, ai ferri corti, tra spie e le grandi poliziotti. Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trofea. Invece dopo, per dare un po' di tonalità partenopea a questa playlist, a questo podcast, arriverà La Famiglia, una delle formazioni più antiche del rap italiano, inizia anni 90. Il pezzo è 1-2-3-4, per chi non capisse il dialetto napoletano, ma tanto se non capite il dialetto napoletano, anche se lo capite farete fatica, accogliere il significato di questo slang che va oltre, veramente oltre. DJ Hands e Enzo Enzo passa gioco. La famiglia rappresenta, yes, faccia fa, faccia fa, come no, e brother Lemsi fa da sostenere, oh banana, sempre sempre malata faca, vira con me spacca, che numero, haha, con va, sientimo, Napoli sono, non stona, mamma sienta, e sienta ca, la famiglia, c'è sta. Ne paesa, che stia dicendo si si non fa, sempre si siente stato, un eroe, tre, quattro, chi sei suo numero è così. Fatto, dopo un beat spaccamo bozzot 5, 6, 7, 8 poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e che sia 7 gli ero un po' venalo devo lasciarmi sempre sotto stato in uterammo motto e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 mu cuso un suriuso come un susporche latte stato musicarne per purpetta fare che rapper in da una buata non da rete stata rodigliette se non sai quale rispetta stai vorrenne troppo aspetta vuoi trotto galoppo ma roppo poco da stoppa ta vota sotto in goppa l'hip hop non era pazziella sta vota mazza ua panella rappresenta razze capo ombrella pata mera masanella ah così tu sai anzella si sì, ma rabbarelle gardarelle a balla tarantella che stampella miezza folla da scamo gocciata che ci vola in fama si da passa per quello ma sporca scarpa la tava vuoi pastella ma fere stalla con vasi bello gomma sta palla e lecco ma caramella che tenga coppa ovvero masse festo peggio guassa festa beve zotto venga roppo lotto perché son guai e notte mo te giuro o me quattro lire non ti fa avere in giro perché con fiera te stira ma non ti ammira in allucca quando mo vira arriva pronto va sfida perché te faccio va fine rotore in ta corrida non te crudo te dico ne uso zucchero per chiacchiera o sento rumore di nacchera son chi che te piglia a pacchera quello che faccio tu fai sempre roppo 1, 2, 3, 4 e 5 sei un pezzotto ne paesa che stia dicendo si si non fa ma se si siente stato 1, 2, 3, 4 chi sei suo numero così ho fatto dopo un beat spaccamo pezzotto 5, 6, 7, 8 poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e che stia 7 gli ero un po' venalo devo lasciarmi sempre sotto stato in uterammo motto e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 quando vuoi un caccarto con me tu puoi solo sta sotto testa stop cuop da coppa se ti non riesci a coppola io sai te tengo fatta te falla dopo beat aspetta quando viene qua ti amate te cazzo stata te schiatta mai mi puffa ma sai passa faccia gialla sina palla dallo per mai soppanate niente te te solita tengo come sangue ma come pi non fate rette ni ne te che te tengo le pigliamo mo come ma pi rima guamma si tu cristo si mi mito giuro un goppa di spacca na tu fava semsi se pigliam siria meglio che piglia respira te faccio farusse ne manco fusse bu marolo cilio con me topira guardi che lirica scrive capire non fira pa mi non ci vira mi etto dopo l'ia fai muina ma prina pa me si femmina caina tu si fava si songo mastine ma stellata con matteggio sai che stennano poi pennano si stanno in gobo vacca scennano sottene ne rima minza tenano si spennano pavamo sai che renano covini le gira stu stile che ste e bene se vuoi spino stacca non me na pacca pacca da spacca te placca e nera con mo caffè se mamma te malata facca e 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 i frati Pinaghi 1, 3, 3, 4 giovedì apri barra da stamma per venire 5, venerdì sabato 6 domenica 7 io giorno 8 il giorno che da cappotto un goppa stupito qua sotto forbotto stai sotto schiatto con bagabutto che stai una capata ne mettere ci rotta e si debutta arava poco solo per far rutto stai male nei tec tu regala da buffamma tipo panettone motta a Natale non vale ne manco 1, 2, 3, 4, 5, 6 eram 7 mummi uani esce te sfascia te venga coppa bascia si mi nume assina nata mie se fascia napolitano con tante pedigri che stanno all'emsi con me femmina lingerie o gala chicchiricchi o giallo sto tassi vitti e timoti non può capire, ne ha fui e fui a denna ambressa ambressa con un passo alla Spidi Gonzales si da chiappa da stick in faccia mura uso murales e roba in stile prima classe parole rare gomma sassero in goppo ritto ah, venemonamma mas su tipo patita l'ingotto in un totto numero vincente con malestrazione allena lotta con mazzera rulletto a slot 3-7 jackpot di a famiglia in goppo beat con malasse piglia tutto n'hanno fatto ruttano con mazzo legnama guapo salama guapo salama lec ma lecco so salama ne paesa che stia dicendo si si non fa ma se si siete stato 1, 2, 3, 4 chi sei suo numero è così mo fatto dopo un beat spaccamo pozzot 5, 6, 7, 8 poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e che stia 7 gli ero un po' venalo devo lasciarmi sempre sotto stato in un deramo motto e 1, 2, 3, 4